giusto. Non c'è ragione mai di essere tristi, salvo quando noi, per andare in cerca della felicità, voltiamo le spalle a Dio e mettiamo sotto i piedi i comandamenti di Dio. Allora c'è motivo, sì, di piangere, perché non abbiamo dato ragione al Signore, gli abbiamo voltato le spalle. Il fiume che si stacca dalla sorgente si condanna a morire secco. No, la settimana scorsa ero su a Ortisei e ho visto dove l'Adige, poco più in su di Bolzano. Oh, ma una polla d'acqua! Mai visto l'Adige in quelle condizioni. Poi è piovuto e si è un po' ingrossato. Ma che pena vedere l'Adige, che di solito siamo abituati a vederlo bello gonfio d'acque, con un rigagnolo. E ho chiesto chi viaggiava con me, ma è proprio l'Adige questo? Sì, sì, proprio l'Adige, in secca così. Noi quando voltiamo le spalle alla sorgente, che è Dio, ci condanniamo alla siccità più paurosa. Non troviamo neanche ragione di essere in noi stessi, non troviamo nessuna soddisfazione. Buttiamoci pure a tutti i capricci, a tutte le follie. Ci troveremo sempre da capo, in bolletta. Al verde, sempre più desolati, sempre più vuoti. Parola che ho sentito dalla bocca di un giovane di 24 anni che aveva fatto il pazzo con amici ed amiche in un ristorante non molto lontano di qui. E quando il padrone dell'albergo disse al capobanda: «Sono stufo di avervi qui in casa! Se non ve ne andate, chiamo le forze dell'ordine». Uno di quelli venne a cercare me, giovane prete, dando l'assalto alla stanza dove io abitavo, per dirmi: «Oh, Don Egino, lei mi confessa, oh, divento pazzo. Sento un vuoto dentro di me che non posso più vivere». Ah, sì. Sì, sì. Dobbiamo dar ragione a Dio, mai dargli torto, tenerle care le leggi di Dio, che sono appena 10 comandamenti. Come ti sono care le dita delle mani, le dita dei piedi, con queste dita lavoriamo, con i piedi ci muoviamo, teniamo cari i 10 comandamenti di Dio, teniamoli cari, perché con quelli noi ci attacchiamo alla sorgente della felicità che è Dio. Impareremo forse a forza di prendere delle botte, delle tegole in testa. I peccati sono tutte tegole in testa. Non aspettiamoci chissà quali fortune dalle tegole in testa. Capite che una tegola in testa può mandarti all'altro mondo, eh? La tegola, oh, ma una tegola di cemento, ah, una tegola di cotto, sì, è una pietra come quelle che sono su questa casa qui, quel pietrone lì, sì, sì, le aspetti? Le credi fortune tu le tegole in testa? I peccati sono tutte tegole in testa. T'attentone che non ti capiti quella volta che è l'ultima. Dice: non peccare mai, infischiandone di Dio. Maledictus homo qui peccat in spe, la Sacra Bibbia. Maledetto l'uomo che pecca infischiandosene di Dio. Se pecchiamo per debolezza, fragilità, e ci pentiamo, possiamo contare sulla misericordia di Dio. Ma quando pecchiamo e ce ne infischiamo, oh, questa scommessa con Dio la perderai sempre, perché Dio non è un burattino. L'autore dell'universo e della tua vita non è un burattino, è Dio. Troppo grande e noi troppo piccoli. Non facciamo i gradassi, non facciamo gli stolti.